398. Funghi secchi. Ogni anno in settembre, quando costano poco, io fo la mia provvista di funghi porcini e li secco in casa. Per questa operazione aspettate una vela di tempo buono, perché essendo indispensabile il calore del sole, vi potrebbero andare a male. Preferite funghi giovani, duri, di mezzana grandezza, ed anche grossi ma non molliconi. Raschiatene il gambo, nettateli bene dalla terra senza lavarli e tagliateli a pezzi molto grossi, perché seccando diminuiscono un visibilio. Se nell'aprirli troverete dei bacolini nel gambo, tagliate via soltanto quella parte che essi avevano cominciato a guastare. Teneteli esposti continuamente al sole per 2 o 3 giorni. Poi infilateli e teneteli all'aria ventilata ed anche nuovamente al sole finché non saranno secchi del tutto. Allora riponeteli e teneteli ben chiusi in un cartoccio o in un sacchetto di carta. Ma a lunghi intervalli non mancate di visitarli, perché i funghi hanno il vizio di rinvenire. Se ciò accadesse, bisogna di nuovo esporli per qualche ora alla ventilazione. Senza questo custodimento, c'è il caso che li troviate tutti bacati. Per servirsene, vanno rammolliti nell'acqua calda, ma teneteceli il meno possibile, onde non perdano l'odore.